in primo piano. Buona giornata, buona domenica da Mauro Meazza, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Come potete immaginare, le vicende politiche sono il grande protagonista delle prime pagine sui giornali di oggi. Vi do conto di qualche titolo, ci sono anche ovviamente diversi commenti, diversi editoriali che cercano di spiegare non solo quanto è successo ieri con questa decisione appunto dello Stato Maggiore, dei vertici del PDL di fare quadrato attorno a Silvio Berlusconi, ma anche quello che potrà succedere in futuro e quindi se ci sarà o no una crisi di governo a breve termine. Cominciamo la lettura dei titoli, sono quasi sempre i titoli principali dalla stampa. Berlusconi contro tutti a un passo dalla crisi. Lungo summit con i ministri ad Arcore, inaccettabile la decadenza del nostro leader, è la dichiarazione poi appunto affidata al vice premier, al vicepresidente del Consiglio dei Ministri Angelino Alfano. Il PD che ha replicato viene riportato ugualmente nel titolo della stampa, il PD le leggi vanno rispettate, e poi un intervento di Vietti, vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, un'intervista concessa alla stampa, dice non è tempo di ultimatum. All'interno il titolo ribadisce appunto questa dichiarazione di Vietti, non è il momento di lanciare ultimatum, e poi le toghe rosse non ci sono, taglia corto appunto il vicepresidente del CSM. Il governo non vota in giunta, ha precisato Letta, e questa cosa viene riportata sulla prima pagina della stampa, sempre in questo blocco dedicato alla politica. E poi i retroscena, ci sono molti retroscena su tutti i quotidiani, quindi racconti, per così dire, ricostruzioni, illazioni, pettegolezzi su quanto è successo, su quanto si sono detti i vertici del PDL ieri ad Arcore. Una frase dà il titolo al lavoro di Ugo Magri per la stampa: Napolitano, se vuole si dimetta, sarebbe appunto stata pronunciata da Berlusconi in opposizione alle cosiddette colombe, cioè a chi non voleva forzature contro il governo e contro la maggioranza delle cosiddette larghe intese, perché appunto invitavano Berlusconi a considerare che in caso di caduta del governo Napolitano potrebbe dimettersi, e questa sarebbe stata più o meno la risposta di Berlusconi. Sempre sulla prima pagina della stampa, la crisi siriana, la questione siriana, gli USA preparano i raid, vertice alla Casa Bianca, l'allarme dalla Cina che dice ai suoi compatrioti, ai suoi connazionali, ci sono troppi furti a Parigi, in un anno scippi cresciuti del 22%, non portate tanto denaro contante, attenti all'uscita dai negozi, l'avvertimento lanciato da Pechino ai turisti cinesi che si recano a Parigi. E poi la chiusura di una discoteca calta, Riccione, droga e violenza, chiude il Cocorico, sono le tre segnalazioni nella parte alta della stampa. A centro pagina i 50 anni del famosissimo discorso di Martin Luther King, I Have a Dream. Il 28 agosto 1963 Martin Luther King pronunciò la celebre frase che cambiò il destino dei neri, appunto io ho un sogno. 50 anni dopo anche loro hanno un sogno, è una foto, il titolo di una grande foto che sta a centro pagina della stampa. Vediamo qualche altro giornale, ancora tornando naturalmente sul tema della politica. Il PDL alza i toni, decadenza inaccettabile, dice il Corriere della Sera nel suo titolo. La decadenza è quella appunto da senatore per Silvio Berlusconi. Vertice di 4 ore ad Arcore, Alfano incalza sull'IMU, abolirla subito, no ad altri rinvii, e muro del PD, le sentenze devono essere rispettate. Berlusconi all'attacco, governo sempre più a rischio, Letta che replica respingo gli ultimatum. C'è una gustosissima vignetta di Giannelli, capisco che è difficile dare conto di una vignetta solo con l'audio, solo alla radio, ma io ci voglio provare lo stesso. Un marito e una moglie sotto l'ombrellone, il marito si dedica alle parole crociate come molti di noi in questi giorni e chiede alla moglie un suggerimento per la seguente definizione: graziato per volontà del popolo, comincia per B, finisce per A. La moglie risponde Berlusca, il marito dice no, non ci sta, è Barabba. Ecco, trovo che questa vignetta in qualche modo sia quasi un editoriale, se volete una sorta di articolo a commento per le vicende che stiamo appunto vedendo in questi giorni. La Lombardia, che è stata retrocessa nella classifica europea della competitività, è il titolo a 100 pagine del Corriere della Sera, affidato a Dario Di Vico. E poi il naufragio del concorsone, perché in tutto questo, come dire, bailam di politica non dobbiamo dimenticarci che c'è un Consiglio dei Ministri potenzialmente, burocraticamente vorrei dire, ancora aperto, quello che si è appunto aggiornato venerdì, che dovrà riprendere domani, ha il pacchetto pubblica amministrazione con tutte le misure per gli statali da vagliare. Ecco, tra le poche misure che sono già state decise, quelle che riguardano i precari della scuola, ne davamo conto ieri, ve lo segnalavamo ieri, ad esempio con i servizi sul Sole 24 Ore. Adesso Paolo Conti oggi sul Corriere della Sera ci dice, ci parla di naufragio del concorsone, perché tra i professori vincitori solo uno su due avrà il posto, è uno degli effetti appunto delle misure che sono state decise dal governo in questa prima parte del Consiglio dei Ministri venerdì scorso. Vedremo che cosa domani succederà nella seconda parte. Il Secolo XIX ha come titolo Berlusconi, la sfida del PDL, decadenza mai, è il virgolettato presumibilmente attribuito al Cavaliere. Il Cavaliere che dice: pronto ai servizi sociali ma da senatore. Questo elemento di titolazione, che poi torna anche nelle pagine interne del quotidiano genovese, è decisamente più evidente, quasi una novità rispetto ai resoconti di altri giornali. Secondo appunto il Secolo XIX, il Cavaliere Silvio Berlusconi, il senatore Silvio Berlusconi, si sarebbe detto disponibile all'affidamento ai servizi sociali, come sapete una delle modalità di esecuzione della pena che è stata confermata in Cassazione. E la frase che viene virgolettata a pagina 3 del Secolo XIX e affidata al retroscena di Ilario Lombardo è: servizi sociali va bene, ma se mi cacciano è finita. Il Cavaliere detta la linea, la rottura dovrà avvenire sull'IMU. Lite tra Cicchitto e Verdini, questo è un dettaglio appunto del vertice svoltosi ieri ad Arcore. Poi le colombe, cioè chi non voleva la rottura sulla maggioranza, sul governo, ottengono qualche giorno per trattare. Il capogruppo però, racconta Lombardo sul Secolo XIX, da giorni sta martellando contro le titubanze del governo sull'IMU. La verità è che non la vogliono eliminare davvero. Ecco l'IMU che torna ad essere un po' il pomo della discordia, o forse sarebbe più corretto dire il casus belli, cioè l'occasione per verificare appunto la tenuta effettiva del governo o invece la sua definitiva decadenza. Berlusconi verso la crisi è il titolo del giorno, il vertice di Arcore, Alfano che ha detto decadenza impensabile, siamo uniti e via l'IMU. Il Partito Democratico fa muro, Letta, grave fare cadere il governo, nessun piano B. E poi una notizia che ieri avete ascoltato da Radio 24 o intercettato probabilmente dai notiziari televisivi: poliziotti corrotti sequestrano due italiani in Thailandia, una vicenda che ha dello sconcertante. Quindi accanto alla segnalazione della stampa sui turisti cinesi troppo spesso scippati a Pechino, questa incredibile vicenda degli italiani sequestrati in Thailandia con la complicità appunto di due poliziotti, su Il Giorno, in prima pagina su Il Giorno. La Repubblica, anche per Repubblica una lettura diciamo pessimista del vertice di ieri, il titolo è: PDL vincono i falchi, crisi più vicina, decadenza di Berlusconi inaccettabile, è stata come sapete parte della dichiarazione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri Angelino Alfano al termine del vertice, e il PD che replica: rispettate le sentenze. Vertice di 5 ore ad Arcore, riassume Repubblica in prima pagina, poi il comunicato di Alfano, a fondo su IMU e giustizia, ultimatum a Napolitano, Letta ed Epifani. In retroscena, qui il retroscena affidato da Repubblica Francesco Bei, il Cavaliere dice voto in autunno e le prime righe di questo articolo già riportate in prima pagina sono chiare, fino ad oggi sono stato responsabile, sono virgolettati attribuiti a Berlusconi, mi sono dimesso senza un voto di sfiducia, ho fatto nascere i governi Monti e Letta, sono 3 anni che siamo responsabili, non abbiamo ottenuto nulla. Adesso ragazzi cambiamo passo, così vengono riassunti i malumori, la posizione di rottura del Cavaliere appunto emersa ieri ad Arcore, avrebbe sposato le tesi dei cosiddetti falchi, così come dice il titolo di Repubblica. E il titolo del Messaggero è analogo, Berlusconi, rompiamo il patto, linea dura confermata dopo il vertice PDL, Alfano, la sua decadenza da senatore è impensabile. Il Partito Democratico che replica, l'assurdo è non rispettare le sentenze, e Letta, Presidente del Consiglio, che dice niente elezioni, non c'è un piano B. Vi voglio segnalare dalla prima pagina del Messaggero anche una indicazione importante che riguarda la pubblica amministrazione, in questo caso la difesa. Difesa 28.000 esuberi, scelta tra mobilità e pensione obbligata. I dipendenti trasferiti negli altri ministeri, per i civili ci sarà anche la messa in disponibilità. Così riferisce Piovani già dalla prima pagina del Messaggero, oggi in edicola. Foto centrale del Messaggero per Amanda Knox, che ha detto non torno in Italia per farmi processare, ha detto anche perché in Italia non mi credete, lo ricorda appunto il Messaggero con una grande foto a centropagina. Come ricorda anche qualche giornale già dalle prime pagine, il problema non è solo e soltanto se avremo ancora un governo, se avremo ancora una maggioranza, strana o non strana che sia, ma che cosa sarà di alcune scadenze cruciali che ci attendono, ad esempio molto vicina la decisione sull'IMU, il 16 settembre incombe la possibilità che in assenza di variazioni si debba tornare alla cassa per pagare quella prima rata sulla prima casa che non è stata versata a giugno, è la prima decisione delicata che il governo dovrà affrontare presumibilmente mercoledì o giovedì prossimi, e allora seguiamo che cosa ci segnala il Sole 24 Ore, il nostro quotidiano, sulla prima pagina. Il titolo diciamo è ottimista, IMU abolizione più vicina, Alfano che ha detto anche nella dichiarazione post vertice di Arcore ieri, ha detto va azzerata, basta con i rinvii, dal 2014 la nuova service tax, i servizi di Marco Rogari, Dino Pesole, Celestina Dominelli all'interno, poi appunto spiegano come si sta lavorando per le cosiddette coperture, insomma se si toglie definitivamente l'IMU, l'imposta municipale sulla prima casa, è evidente che si debbano trovare dei fondi, delle risorse per poter coprire questo mancato introito per lo Stato, e allora questo è il lavoro più difficile nelle prossime ore, nei prossimi giorni per il governo, ma incombe anche la questione dell'IVA, con IVA e CIG partita da 6,4 miliardi, anche lì come sapete l'IVA doveva aumentare nella sua aliquota massima, oggi al 21%, doveva aumentare al 22% dal 1° di luglio, è stato rinviato questo aumento al 1° di ottobre, si vorrebbe arrivare fino alla fine di questo anno 2013, ma bisogna anche per questo trovare i fondi. Allora, dalla pagina 3 del Sole 24 Ore di oggi, IMU, IVA, cassa integrazione partita da 6 miliardi e 400 milioni, il PDL insiste sull'azzeramento per la prima casa, spiega l'articolo di Marco Rogari, sono stati trovati 3 miliardi, ne mancano ancora 1,5 se non 2. I tecnici dell'economia, dice Rogari, sarebbero riusciti a individuare risorse per 2,5-3 miliardi, anche se da via 20 settembre non arriva conferma ufficiale, ma per garantire la copertura del totale azzeramento di entrambe le rate 2013 dell'IMU prima casa, che vale nel complesso 4 miliardi e 400 milioni. Questa è stata la richiesta, ricorda Rogari, del PDL, ed è stata ribadita ieri da Angelino Alfano dopo il vertice di Arcore. Mancherebbero all'appello ancora almeno 1,5 miliardi o 2 miliardi, senza considerare che ci sarebbero poi da recuperare altri 2 miliardi, mezzo miliardo circa per rifinanziare la cassa integrazione per quest'anno, dei quali questi soldi si aggiungeranno poi, dovranno aggiungersene altrettanti per il 2014 con la legge di stabilità, e poi 1 miliardo per appunto prolungare la sterilizzazione, cioè scongiurare l'aumento dell'IVA fino a fine anno. In tutto una partita da 6 miliardi e 400 milioni, riassume Rogari. Da dove verranno i fondi? I fondi potranno venire dal maggior gettito dell'IVA, che arriverebbe dallo sblocco dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione. Appunto, lo Stato comincerebbe, le pubbliche amministrazioni stanno cominciando a pagare i loro crediti, i loro debiti, pardon, alle imprese. Questo genererà un extra gettito cosiddetto per l'IVA, questo è una possibile fonte. E poi ci sono quelle che potremmo definire un più tradizionali, le più abituali: aumento delle accise su giochi, bolli e sigarette, ma non sui carburanti, precisa Rogari, appunto Marco Rogari, sul Sole 24 Ore di oggi. Il governo intanto prepara anche un decreto del fare 2, cioè una serie di semplificazioni. Lo annuncia e lo spiega Celestina Dominelli sul Sole 24 Ore, sempre di oggi. Decreto del fare bis, Zanonato accelera. Sempre dal Sole 24 Ore, nelle pagine interne, vi voglio segnalare un bellissimo grafico che naturalmente non possiamo mostrarvi, vi rimando appunto al numero in edicola, che raccoglie tutte le banche dati fiscali e anche non fiscali, diciamo, cioè tutte le possibilità di verifica che il fisco, in primo luogo, ma in generale la pubblica amministrazione, ha per controllare i cittadini, per controllare la loro correttezza, ad esempio quando chiedono una prestazione sociale agevolata. È un grande occhio, in qualche modo un grande cerchio, in cui sono riportate sia le varie dichiarazioni che dobbiamo fornire allo Stato e alle pubbliche amministrazioni, e poi cosa possono fare l'Agenzia delle Entrate, i ministeri, l'INPS, la Guardia di Finanza, i comuni o l'INAIL, per controllare che cosa se ne fanno di questi dati e come possono incrociare il tutto. L'effetto visivo è imponente. L'associazione bancaria ha censito 22 monitoraggi obbligati per le banche, 12 sono fatti solo per le entrate. Gli istituti di credito però dicono non ci rivarremo sui correntisti per gli esborsi sostenuti per questi controlli. Il titolo di questo lavoro, il commento di questo lavoro, è affidato a Giorgio Costa, che segnala nel titolo: con l'anagrafe raddoppiano i costi fiscali delle banche. Una sorta di grande fratello, non solo fiscale verrebbe da dire, ma amministrativo fiscale, che dovrebbe permettere di tenere sotto controllo con estrema precisione i nostri comportamenti. Vedremo se poi tutto questo si tradurrà ad esempio in un maggiore gettito dato dal contrasto all'evasione. Torniamo per qualche minuto sulle vicende politiche, lasciamo quelle economiche e, come dire, quelle che possono riguardare il futuro delle nostre tasche. È interessante naturalmente capire, in una giornata come questa, in una mattina come questa, qual è la lettura delle testate, ad esempio più vicine al centrodestra, delle dichiarazioni, delle posizioni rilasciate, emerse ieri dal vertice di Arcore. Allora prendiamo Libero. Il PDL fa quadrato, segnala Libero. Silvio non decade, cade prima Letta. Inaccettabile cacciare il cavaliere per tenere sul governo, serve una soluzione politica, ma il PD se ne frega dei problemi dell'Italia, solo il Colle può evitare il patatrac. E il Giornale ha un titolo di due sole parole, direi non incoraggiantissime: sfida finale, il vertice di Arcore. Il PDL compatto con il cavaliere, Napolitano e Letta, il compito di trovare la soluzione. Il PD in fibrillazione, la guerra a Renzi rischia di far cadere il premier. Commento sul Giornale affidato da Alessandro Sallusti. È andata come era ovvio che andasse, nessuna resa, nessun cedimento, nessun sotterfugio. Al termine del supervertice di ieri, ad Arcore il PDL ha ufficializzato che senza Silvio Berlusconi in politica non si va avanti né col governo né probabilmente con la legislatura. Se poi mercoledì in Consiglio dei Ministri non dovesse essere varata l'abolizione dell'IMU, la caduta di Enrico Letta potrebbe addirittura essere contestuale. Ma il risultato più importante del vertice di ieri, scrive sempre Sallusti su Il Giornale di questa mattina, il risultato più importante del vertice di ieri è il fallimento del piano, subdolo e mai dichiarato, di scindere il destino del PDL da quello di Silvio Berlusconi. Ci avrebbero provato negli ultimi giorni i soliti maneggioni della politica, facendo balenare nella testa di alcuni notabili del PDL la sirena di un nuovo partito di centro, Berlusconi indipendente, ma il condizionale è d'obbligo, perché in questo campo le leggende metropolitane, il gossip politico, le mezze verità si fondono in un magma indecifrabile. Insomma, ci sarebbe stata questa manovra per smarcare il PDL o parte del PDL dal suo leader, dal suo fondatore, da Silvio Berlusconi, manovra che però è stata appunto respinta, così si può ricostruire dall'editoriale, dalle queste righe dell'editoriale di Alessandro Sallusti su Il Giornale. Altra testata vicina alle posizioni del centrodestra, Libero. Vi dicevo nel titolo: Silvio non decade, cade prima Letta, il PDL fa quadrato, editoriale affidato a Maurizio Belpietro. Anche qui parole, come dire, poco incoraggianti per quanto riguarda il futuro del governo. Siamo alla frutta, scrive Belpietro, anzi all'ammazzacaffè. E a finire ammazzata è la timida esperienza di governo delle larghe intese. Come certificato ieri dal vertice di Arcore, o si trova una soluzione costituzionale alla questione che riguarda Silvio Berlusconi, o qui viene giù tutto, esecutivo compreso. Cosa che alcuni giudicheranno forse positiva, ma per noi che di Enrico Letta non siamo mai stati tifosi, rischia invece di farci andare di male in peggio. Intendiamoci, a oggi di cose concrete questi ministri ne hanno fatte pochine, ma il Premier ha le sue buone ragioni per essere rimasto fermo ai box. Prima ancora che echeggiasse lo sparo di inizio corsa, c'era già chi si esercitava a tirare su di lui, e i più determinati erano proprio i suoi compagni di partito, cioè quelli che avrebbero dovuto gioire di aver mandato uno dei loro a Palazzo Chigi. Nei suoi primi 100 giorni Letta, ha fatto da involontario tiro a segno sia per i renziani che per gli esponenti della vecchia guardia del PD. L'ultimo in ordine di tempo a metterlo nel mirino è stato Massimo D'Alema, il quale, benché rottamato, non si rassegna alla pensione, peraltro congrua, che gli viene garantita dal Parlamento, ma è sempre lì a brigare per rientrare dalla finestra dopo essere stato fatto uscire dalla porta. Queste alcune parti dell'editoriale di Maurizio Belpietro. Prima di Berlusconi cadrà Letta, ribadiscono anche le pagine interne di Libero, che poi appunto riportano questi virgolettati, vi dicevo prima, dei retroscena che compaiono un po' in tutti i giornali. Io tradito, meritano la crisi, è la frase attribuita da Libero al Cavaliere. E poi Consiglio dei Ministri decisivo, la resa dei conti sarà il 28 sull'IMU. Passo falso degli azzurri, sottoscritto un documento che mette a rischio l'abolizione della tassa, avverte Franco Bechis, ma appunto questo legame tra i destini di Silvio Berlusconi, destino politico di Silvio Berlusconi, e i destini dell'IMU, viene evidenziato, viene sottolineato proprio da Libero nella sua edizione odierna. E poi un lavoro di Carlo Pelanda presentato nelle pagine interne, che dice: occhio, se cade Letta ci manda i commissari, ci mandano chi l'Europa. In caso di crisi di governo, la Merkel, dice il titolo di questo lavoro di Carlo Pelanda, in caso di crisi di governo la Merkel è pronta a imporci un programma di aiuti con condizioni punitive per l'economia. Però un articolo nella stessa pagina ci avvisa che se passa indenne a settembre, poi l'esecutivo tira dritto. Perché? Perché ci sono degli appuntamenti europei che in qualche modo riuscirebbero a garantire al governo Letta di proseguire il suo mandato. Quindi diventa, come dire, sempre più cruciale quello che si svolgerà la settimana che si apre domani per quanto riguarda l'IMU e anche poi le altre imposte, le altre questioni economiche del governo. E vedremo se dal vertice di ieri è uscito davvero un diktat o invece ci sono ancora sufficienti spazi di manovra. In questo ultimo blocco vorrei darvi conto di qualche altro commento, magari dai giornali più importanti, per quanto riguarda appunto le vicende politiche. Questo perché pare evidente che poi, al di là delle questioni appunto che riguardano individualmente i personaggi politici, la partita in gioco sia quella toccante e cruciale, che ad esempio riguarda le nostre tasche, con questioni come l'abolizione o non l'abolizione dell'IMU o l'introduzione di nuove tasse come questa service tax di cui si è tornati a parlare in questi giorni. Allora, che è successo ieri? Come dobbiamo leggere gli eventi di ieri? Pierluigi Battista riassume così sulla prima pagina del Corriere della Sera: la corda si sta spezzando una pietra dopo l'altra inesorabilmente. I proclami del PDL annunciano la valanga finale che potrebbe spazzare via il governo delle larghe intese. Formalmente, dopo il vertice di Arcore, non c'è nulla di definitivo. Si pongono ancora condizioni, l'ultimatum è privo di quella inappellabile perentorietà che lo renderebbe ineludibile. Ma una pietra dopo l'altra, una dichiarazione dopo l'altra, il partito di Silvio Berlusconi sta decidendo di mettere fine, assieme all'eventuale decadenza del suo leader da senatore in seguito alla sentenza della Cassazione, all'esperienza del governo Letta. Quando Angelino Alfano, scrive ancora Battista, segretario del PDL ma anche vicepresidente del Consiglio, include il suo stesso primo ministro nella lista di quelli a cui si rivolge per evitare la crisi finale, beh, vuol dire che un'altra barriera è stata disintegrata. Il governo non deve temere, disse Berlusconi all'indomani del verdetto della Cassazione. Oggi invece è la lettura di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera: il governo deve temere moltissimo. Viene addirittura messo sulla graticola come possibile corresponsabile di una decisione bollata a priori come costituzionalmente inaccettabile. Ma il governo non ha nessun potere costituzionale per orientare il voto del PD quando si dovrà decidere sulla decadenza di Berlusconi sulla base della legge Severino. Se viene menzionato così esplicitamente in una dichiarazione che prelude alla lacerazione di un patto nato 4 mesi fa, vuol dire che la via che conduce allo strappo si fa sempre più breve. Così appunto riassume Pierluigi Battista nell'editoriale sul Corriere della Sera. E un altro appuntamento abituale con gli editoriali, con gli editorialisti, domenica è quello con Eugenio Scalfari su Repubblica. Vediamo come riassume, come legge le vicende di ieri Scalfari. Silvio, il Rais che porta al disastro il paese, è il titolo, e scrive Scalfari: la riunione ad Arcole di tutto lo Stato Maggiore berlusconiano, ministri compresi, è stata lunga e contrastata, erano in tanti, ministri e non ministri. Non risulta invece la presenza di Gianni Letta, ormai in palese disgrazia agli occhi del capo. Il giorno prima, ricorda Scalfari, c'era stato un consiglio di famiglia orientato alla moderazione per evitare contraccolpi sfavorevoli sulle aziende e sulle partecipazioni azionarie berlusconiane. La conclusione del vertice di ieri ad Arcore, sentiamo come la legge Scalfari, è stata una fumata nera come il carbone, che avrà come risultato assai probabile la caduta del governo Letta. Poi Scalfari fa alcune considerazioni sulla tenuta fin qui dei mercati per quanto riguarda i conti italiani. Tra l'altro sul Sole 24 di oggi si ricorda che settimana prossima ci saranno delle aste, anche se per importi non elevatissimi, di titoli di Stato, quindi ci sarà subito anche l'occasione di verificare come le fibrillazioni, gli eventi politici possano avere effetto su chi vuole o non vuole affidarsi al nostro debito pubblico, vuole credere, come dire, nella tenuta dei conti italiani oppure no. Più oltre Scrive Scalfari, l'Europa non crede possibile che la classe dirigente italiana sia talmente fragile da cedere agli eventuali colpi di testa di un personaggio da tempo evitato e dileggiato da tutte le cancellerie europee. Insomma, l'Europa si fida, è il giudizio di Scalfari, ma se quella fiducia si manifestasse infondata, quindi se ci fosse questa crisi di governo che secondo Scalfari sarà inevitabile, le ripercussioni purtroppo sarebbero inevitabili e molto pesanti. Non scordiamoci che l'ammontare del nostro debito pubblico è uno dei più alti al mondo e che i nostri titoli e quelle delle nostre banche, che in larga misura li hanno in portafoglio, sono largamente diffusi nei sistemi bancari e nei fondi di investimento internazionali. Poi Scalfari fa alcune precisazioni di tipo istituzionale, di funzionamento, come dire, istituzionale di tutta questa vicenda che appunto vede coinvolto Berlusconi, questo voto che ci dovrà essere il 9 di settembre, dal 9 di settembre, per la sua eventuale decadenza, per la sua decadenza da senatore, in seguito appunto alla conferma della sentenza di Cassazione. Spiega, ricorda Scalfari, la giunta e l'aula, giunta che deve decidere appunto sulla decadenza da senatore, e l'aula non hanno potere di ricorrere alla consulta alla Corte Costituzionale, e stupisce che un presidente emerito come Capotosti attribuisca a questi organi parlamentari un potere occasionalmente giurisdizionale. Capotosti può pensarla come crede, ma non può commettere questi errori, non c'è appunto quella possibilità di adire, di arrivare alla consulta, di sollevare una questione costituzionale, quindi le trattative che sono state fatte in questo senso non avrebbero possibilità secondo il giudizio di Scalfari. E poi i sondaggi, ieri vi davamo conto dai diversi quotidiani che in realtà tutti questi rovesci giudiziari in primis e burrasche politiche in seconda battuta non sarebbero così nocive a Silvio Berlusconi, anzi starebbero portando ulteriori consensi, scrive Scalfari. I sondaggi, per quel che valgono, sono controversi. Dopo la sentenza di condanna definitiva, secondo alcuni il PDL sarebbe in leggera ripresa e supererebbe il PD, secondo altri invece sarebbe in ulteriore caduta. Comunque i messaggi di Berlusconi sono ancora ascoltati da un 15-18% di elettori. Non è molto, dice Scalfari, ma neanche poco, se si considera che dopo 6 elezioni il bilancio consuntivo dei risultati promessi è zero. Questi alcuni passaggi dell'editoriale di Scalfari su Repubblica, che come avete sentito è assolutamente pessimista per quanto riguarda il futuro del governo. Vediamo qualche giornale di sinistra, mi direi con estrema sintesi, cioè il Manifesto, che dedica la sua prima pagina alle vicende siriane. Eventi di guerra è il titolo principale del Manifesto. Abbiamo le prove dell'uso di armi chimiche, la Francia spinge per un intervento armato contro il regime siriano. E cambiando assolutamente, non vorrei che si dicesse che l'ho messo tra i giornali di sinistra, Avvenire però è l'altro giornale che oggi dà ampio spazio in prima pagina alla crisi siriana. Agire in Siria, mondo diviso, è il titolo più prudente di Avvenire. Medici Senza Frontiere conferma, c'è stato un attacco chimico, il regime accusa i ribelli, ecco le prove, gli Stati Uniti pensano a un intervento NATO, Obama mette Assad nel mirino, no di Russia e Germania, l'Iran dice sarebbe guerra totale. Questo il titolo di Avvenire, che appunto ci spiega quanto complessa sia la crisi siriana e quanto anche pesanti potrebbero essere le sue conseguenze ben oltre l'area mediorientale in cui si stanno svolgendo queste vicende. E poi naturalmente dall'Avvenire spazio anche per le questioni politiche, il PDL fa scudo, decadenza impensabile dal vertice Partito Unito con Berlusconi. Vi segnalo per le inchieste di questo stesso quotidiano di Avvenire i drammi dello sfruttamento. In Africa torna la tratta degli schiavi, è un lavoro di Freschini Coffia che nelle pagine interne, e l'impiego di baby lavoratori, cioè di lavoratori minorenni, anche in Europa, che è ugualmente un lavoro fatto dal quotidiano Avvenire. Nello scavo, allarme minori sfruttati in Europa è un tema tabù, denuncia da Strasburgo, colpa della povertà crescente. Quindi anche in Europa, non solo in paesi lontani da noi, ci sarebbe appunto lo sfruttamento di lavoratori minorenni, così Avvenire oggi in edicola. Concludiamo questa rassegna stampa, abbiamo praticamente un minuto prima di salutarci con due testate, anche queste di orientamento politico. La prima, l'Unità, Arcore, la decadenza del PDL, duro scontro durante il vertice, e poi la ripresa della notizia sulla generazione digitale, cresce l'uso di internet da parte dei bambini, qualche giornale dava conto ieri di questo lavoro, oggi lo riprende anche l'Unità nelle sue pagine interne. Il Fatto Quotidiano, Arcore, le ultime volontà, salvate il pregiudicato, è il virgolettato sarcastico con cui il Fatto Quotidiano apre la sua edizione di oggi. La frase più importante, diciamo, come lettura delle questioni è: crisi di governo alle porte, si legge appena sotto il titolo del Fatto Quotidiano di oggi. Bene, vedremo se, come dire, prevarranno i falchi o invece le colombe, soprattutto vedremo che cosa succederà del governo e anche delle tasse che ci attendono in questi giorni, quindi a cominciare dalle decisioni che dovranno essere prese domani in questo Consiglio dei Ministri da concludere, avviato venerdì, e poi mercoledì o giovedì per quanto riguarda l'IMU. Per conto mio invece vi auguro un'ottima domenica, grazie a Gianmarco Ferronato in regia questa mattina, e a risentirci.